Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Marianna Stefanucci. Ci sono momenti nella vita di un uomo in cui ci si trova di fronte a un bivio. E a volte succede che la scelta di qualcuno ricada sul destino di qualcun altro. Lo scrittore Tiziano Terzani diceva che tra una strada che va in su e una che va in giù, è meglio prendere quella in salita, perché salire è una sfida, è un altro modo di vedere le cose, ti tiene allerta. Salire è più difficile. La storia che raccontiamo oggi a Destini Incrociati parla di uomini e calcio, passione e voglia di vincere. È una storia in cui il motore è il conflitto tra un'individualità forte e lo spirito di squadra. Grande rettangolo di erba sintetica, due porte, le bandierine e un arbitro. Ci si gioca tutto in una partita. 28 aprile 2010, Barcellona. Semifinale di ritorno di Champions League, Barcellona-Inter. Lo stadio Camp Nou, il più grande d'Europa, quasi 100.000 posti, è gremito. I tifosi di entrambi i club, eccitati sugli spalti con sciarpe e cappellini, hanno comprato i biglietti facendo la fila ai botteghini per ore. Alcuni si sono accampati notti prima dell'apertura delle vendite. I giornalisti curiosi sono andati a vedere. Armati di sedie pieghevoli, tende, sacco a pelo e soprattutto tanta pazienza, decine di tifosi hanno iniziato da mercoledì sera a bivaccare di fronte alla sede della banca che distribuisce i biglietti. Gente che è arrivata da ogni parte d'Italia. La partita, d'altra parte, di quelle storiche, la tensione alle stelle. Che Barcellona-Inter fosse lo scontro con la S maiuscola, lo si era capito già dal sorteggio dei gironi l'estate precedente, quando ancora tutti erano occupati a fare cruciverba sotto l'ombrellone. Il destino era già all'opera, perché aveva previsto che le due squadre si incontrassero all'interno dello stesso girone, i primi di settembre, suscitando nelle tifoserie rivali sentimenti opposti. L'Inter, dopo anni di anonimato, riconquista per 3 anni di seguito lo scudetto, ma sta ancora cercando l'identità e la personalità necessarie per imporsi a livello europeo. Il discusso allenatore del club, il portoghese José Mourinho, fascinoso brizzolato dai modi decisi e la presunzione proverbiale, al termine della scorsa stagione, ben consapevole delle difficoltà della sua squadra, rilascia questa dichiarazione. Questo complesso di cui si parlava, che l'Inter aveva paura di giocare in Champions League, che l'Inter aveva paura di giocare contro le squadre più importanti, completamente, se avevano questa paura non hanno più, non è sicuramente un problema psicologico, potrà essere un problema dal punto di vista calcistico, abbiamo bisogno di qualcosa in più, ovviamente sì. Per i catalani invece la consapevolezza di essere la squadra più forte del mondo fa stare tranquilli. Vincere ancora la Champions, dopo averla vinta l'anno prima, è più una questione di prestigio che una dimostrazione di valore. Il Barcellona è reduce da una grandiosa triplete. Ha vinto tutto. Campionato spagnolo, Coppa nazionale ed europea. Un'orchestra perfettamente accordata in cui è stato inserito in estate un solista in grado di alzare ulteriormente il tasso tecnico e spettacolare. Il suo nome è Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, nasce a Malmö, la terza città della Svezia per numero di abitanti. La stessa città che ha dato i natali al regista Jan Tröll e al pilota di Formula 1 Gunnar Nilsson e alla conturbante protagonista della dolce vita Anita Ekberg. Suo padre è bosniaco e sua madre è croata. Un connubio interessante e insolito che lo fa crescere da balcanico al freddo della Scandinavia. Fisico da vichingo e temperamento slavo, Zlatan è un agglomerato di muscoli spalmati su 1,92 m e ha una voglia di vincere pura e dura che non è fame di riscatto né sogno di gloria, è semplicemente voglia di vincere e non ha paura di ammetterlo. No, faccio tutto per vincere, però vediamo. The game! I am the threat that is so real. To the blood and the sweat, the pain you will feel. Ibra, lo chiamano tutti così, a soli 5 anni ha già i piedi le scarpette da calcio e i parchi tra le case e i palazzi del suo quartiere per lui sono già i grandi stadi in cui è certo che finirà a giocare. Sua madre, Jurka, nelle interviste ricorda così Zlatan da bambino. Era sempre là a giocare. Non so quante volte i vicini sono venuti a lamentarsi del pallone che finiva immancabilmente nelle loro siepi. A 10 anni, un episodio fa capire a tutti quelli che gli stanno intorno che il calcio è la sua strada. Zlatan gioca nella squadra del Balkan, nella categoria dei ragazzi 2 anni più grandi di lui, e in una partita contro la squadra del Vellinghe parte dalla panchina. Alla fine del primo tempo il Balkan perde 4-0 e Zlatan entra in campo nella ripresa. È lui a segnare gli 8 gol del risultato finale, 8-5. Il Vellinghe protesta sollevando l'accusa che Zlatan sia più vecchio del limite di 12 anni. È necessario mostrare il certificato di nascita per convincere gli avversari e addirittura stupirli, provando loro che il ragazzo è addirittura 2 anni più giovane, ma con un talento lampante, che il suo primo allenatore ricorda così. Era determinato, sicuro di sé, aveva voglia di allenarsi e di migliorare e partiva da una base altissima, aveva un talento innato. L'ho spinto ad affinare la tecnica, ad andare avanti. Sapevo che sarebbe diventato un grande e per fortuna mi ha ascoltato. Nel giugno del 2000 Zlatan gioca con il Malmo nel Superettan, la seconda divisione, e già si fa notare dai responsabili della nazionale svedese. Intanto si sparge la voce della sua bravura, sintesi perfetta di impeto da guerriero e classe cristallina, e i club iniziano a contenderselo. Il manager Arsène Wenger cerca di convincere Ibrahimovic a unirsi all'Arsenal, utilizzando addirittura una maglia numero 9 con il nome di Zlatan già stampato sulle spalle. Ma sarà la squadra olandese dell'Ajax a vincere la corsa per avere la sua firma su un contratto. Nella primavera del 2001 l'affare è ufficializzato e Zlatan Ibrahimovic, detto Ibra, diventa il giocatore svedese più caro di sempre. Ma è inquieto e la sua irrequietezza è dettata dalla continua spinta a fare sempre meglio. Non gli interessa la fedeltà a un club. Zlatan va dove lo porta l'istinto, dove sente che può vincere. Nel 2004, dopo un'eclatante campagna acquisti che tiene sulle spine migliaia di tifosi, è nella Juventus di Fabio Capello, che lo accoglie calorosamente, come racconta lo stesso Ibra. Quando è arrivato qua, prima volta, lui mi ha detto «You don't have to show me nothing, perché io conosco te, tua qualità e tutto. Stai calma e fai di allenamento buono e solo don't think too much, non pensare troppo, solo stai calma e giochi». Ma la voglia di vincere e l'ambizione personale fanno sì che dopo soli 2 anni Ibrahimovic lasci la Juventus, retrocessa d'ufficio in Serie B dopo lo scandalo di Calciopoli, per approdare all'Inter, l'unica squadra italiana che in quel momento è in grado di garantirgli ingaggio e possibilità di vittoria. È normale che voglia vincere, però questo ti arriva automatico. Se lavori tanto, un po' di fortuna, piccole d'Italia, arriva anche quello. Non è che io... Ogni anno che inizio che è obbligatorio vincere Champions. È normale che abbiamo questo come obiettivo, ma se vince, se no, no, se va avanti. 3 anni all'Inter, 3 scudetti, 2 supercoppe, 1 classifica cannonieri, 117 presenze e 66 gol che hanno garantito alla squadra un dominio incontrastato in ambito nazionale. Tutto questo non basta a trattenere Ibrahimovic. Vuole la Champions e il pallone d'oro. E non ritiene la squadra in grado di supportarlo. La sua ambizione lo porta a volere sempre il meglio, che in questo momento ha un nome: Barcellona. Ad inizio stagione 2009-2010, l'Inter senza Ibrahimovic ma con 5 nuovi giocatori vede ancora la Champions come un miraggio e il Barcellona come un modello ancora lontano da raggiungere. Ma nel corso dell'anno le cose possono cambiare. Se il Barça, sicuro e senza difficoltà, continua a dominare sia in Spagna che in Europa, confermandosi una macchina spietata, in grado di travolgere gli avversari sotto i colpi dei suoi fuoriclasse, per l'Inter sono 2 i momenti decisivi che indicano il cambio di rotta. 85esimo minuto di Dinamo Kiev-Inter, partita fondamentale per accedere al turno successivo di Champions League. Il Barcellona vola in testa alla classifica. L'Inter deve vincere, ma è la Dinamo ad essere avanti di un gol. Però proprio quando il sogno sembra svanire per l'ennesima volta... Snyder si gira, vuole trovare il solo forse Dio. Snyder si coordina, cerca adesso, Milito, Milito, Milito, Milito, è il principe! Prende la corona, 1-1, 1-1, finisce davanti l'Inter, dentro ancora il suggerimento, fa passare Montori, la palla esce, ancora l'Inter con Sneijder al termine di un'azione pazzesca. Pensavo che ci avesse messo un vetro, pensavo che ci avesse messo un vetro. L'Inter, dopo un cammino incerto, ipoteca la qualificazione agli ottavi, dove il destino decide di metterla ancora una volta alla prova. Dall'urna esce il Chelsea di Carlo Ancelotti, una delle grandi favorite per la vittoria finale, guidata proprio dall'ex allenatore dell'eterno rivale del derby meneghino. A Milano l'Inter vince e convince, ma la vera consacrazione sarebbe espugnare Stamford Bridge. Londra, 16 marzo 2010. Nello stadio inglese del quartiere più chic della capitale, i biglietti sono esauriti da tempo e i giornali hanno scritto a grandi titoli il simbolico ritorno a casa di Mourinho, ex allenatore del Chelsea, di nuovo at home. Le vie della città, che già normalmente sono piene di turisti italiani, sono prese d'assalto da sciarpe nero-azzurre. Quattro passi a Buckingham Palace, un salto al Big Ben, tutto in attesa della notte su cui poggiano le più grandi aspettative. Il clima è disteso, si sente al massimo qualche coro in metropolitana, ma la serata vale il viaggio e l'esorbitante costo del biglietto. Attenzione Mili, centrale per Sneijder, la palla è ottima per Samuel Eto'o, Samuel Eto'o, Samuel Eto'o, Samuel Eto'o, Samuel Eto'o, è il trionfo di Mourinho e dell'Inter. L'Europa non fa più paura e anche il Barcellona, implacabile sullo Stoccarda, dovrà temere il sogno nero-azzurro di alzare al cielo la grande coppa. Ancora una volta è il destino a incrociare i percorsi di Inter e Barcellona. Non sono certo infatti il CSKA di Mosca e l'Arsenal a poter evitare che il 28 aprile il Camp Nou possa diventare l'arena da cui uscirà un solo vincitore. Mourinho ha le idee chiare in proposito. We have the dream to play the Champions League final. And for Barcelona it's not a dream, it's an obsession. And there is a difference between a dream and an obsession. Milano, 20 aprile 2010, partita di andata della semifinale di Champions Inter-Barcellona. 60.000 cuori nero-azzurri rendono lo stadio di San Siro incandescente. Milioni di tifosi hanno anticipato la cena e prenotato il telecomando. La controprogrammazione è al minimo, la tensione è al massimo. Questa volta la vittoria sembra possibile. I segni del destino sono lì per dimostrarlo e hanno le sembianze di una nube di cenere vulcanica. Ma l'allenatore blugrana Pep Guardiola non crede ai presagi. Diciamo che non è la situazione ideale per, dopo una partita, dopo tre giorni, a fare 14 ore di pullman per affrontare una semifinale del Champions League contro l'Inter e Milan. Diciamo che non è la situazione ideale, ma è un problema di un vulcano, quindi contro questo non possiamo fare niente. È un problema di una situazione atipica che è successo, ma diciamo che non ci siamo fermati noi. Tanti persone in Europa stanno nella stessa situazione, noi siamo un altri dei tanti che è successo, quindi potevamo fare una cosa, rimanere a casa, perché no, o viaggiamo in aereo o non viaggiamo e perdiamo 3-0 perché la UEFA non c'è presentazione allo stadio. Quindi come volevamo giocarcela, l'unica soluzione era prendere un pullman. L'abbiamo fatto la maniera più comoda e per questa ragione abbiamo messo due pullman, non soltanto uno, per stare un po' più confortevole, e lo più importante è che sia confortevole i giocatori. Al di sopra della nube, due anime nero-azzurre, gli indimenticati Giacinto Facchetti e Peppino Prisco, sognano che come il vulcano ha impedito al Barcellona di volare a Milano, l'Inter gli possa impedire di volare alla finale di Madrid. Il Barcellona è forte e dopo 15 minuti raggela le speranze dei padroni di casa. Ma l'Inter c'è, non cade, reagisce e impone la sua voglia di vincere. Sneijder, Maicon, Milito, un trionfo. L'Inter ha battuto il Barcellona 3-1. A questo punto sognare Madrid non è impossibile. L'ultimo ostacolo è l'inferno del Camp Nou. Appuntamento la settimana dopo, il 28 aprile, a Barcellona. Più si avvicina l'ora X, più si alzano i decibel. Il coro dei 100.000 rende l'atmosfera incandescente. L'annuncio delle formazioni suscita entusiasmo per i sostenitori e timori per gli avversari. Entrambe le squadre hanno fuoriclasse in grado di cambiare il destino di un incontro in ogni momento. Gli allenatori sanno che, come in una partita a scacchi, ogni errore può essere fatale. I calciatori, entrando sul terreno di gioco, vedono negli occhi dei rivali la voglia di vincere che sentono nel loro cuore. Non c'è spazio per i sentimenti, conta solo il risultato. Due sguardi si incrociano e per un attimo l'emozione diventa palpabile. È solo l'anticipazione di quello che succederà più avanti. È il 69esimo minuto. Il Barcellona non riesce a segnare e la lavagna luminosa del quarto uomo segnala la sostituzione del numero 9 blugrana, Zlatan Ibrahimovic. Dalla parte opposta del campo, il medesimo numero in maglia nero-azzurra per un attimo sussulta, temendo di essere lui il destinatario della sostituzione. Per tanto tempo è stato il 9 del Barcellona, ma adesso è il centravanti dell'Inter, che con il suo gol allo Stamford Bridge di Londra ha contribuito a cambiare il destino della squadra nero-azzurra in Champions League. Il suo nome è Samuel Eto'o. Samuel Eto'o. Tra poco, a Destini Incrociati. Can you feel me? It's only me. I have that desperate feeling. Destini incrociati. A Destini Incrociati è il 28 aprile 2010. Sono le 22:50 e allo stadio di Barcellona si è appena conclusa la semifinale di ritorno di Champions League. Si sono scontrati Inter e Barcellona e l'Inter, già vincitrice della gara di andata, ha saputo resistere all'attacco delle furie spagnole. È stata una partita d'altri tempi. La squadra di casa in superiorità numerica per gran parte della partita, a seguito dell'espulsione dell'interista Motta, ha cercato inutilmente di segnare i due gol che le avrebbero garantito la qualificazione. I giocatori dell'Inter, con una sete di vittoria pari solo alla grinta e alla determinazione del proprio allenatore, José Mourinho, si sono aggrappati con le unghie e con i denti al risultato della gara di andata e sono riusciti a rendere la sconfitta ininfluente per il passaggio del turno. Commenta così il capitano Javier Zanetti. Perdo, però credo che meritiamo questa vittoria e il passaggio alla finale, e credo che lo sforzo che abbiamo fatto oggi è la dimostrazione di un grande gruppo. Con l'eliminazione del Barcellona svanisce anche il sogno di Ibrahimovic di vincere la Champions, la molla che l'aveva spinto a lasciare proprio l'Inter per entrare a far parte del club catalano. Continua invece il sogno europeo sul binario nero-azzurro per Samuel Eto'o, approdato a Milano come contropartita tecnica in aggiunta a 45 milioni di euro di Zlatan Ibrahimovic. Eto'o, soprattutto dopo le dure parole di Guardiola che lo aveva liquidato senza neanche un grazie, vorrebbe monetizzare la sua partenza. E se ieri l'accordo con l'Inter era stato raggiunto per 10 milioni di euro a stagione più dei bonus, oggi il procuratore cercherà di alzare a 12 milioni a stagione l'ingaggio del camerunense. Tutto questo mentre Mino Raiola, procuratore di Ibrahimovic, è a Barcellona per definire il passaggio dello svedese al Barça. Ibrahimovic e Eto'o. Vichingo col sangue slavo il primo, gazzella africana il secondo. Due calciatori accomunati dal medesimo numero di maglia e da una classe immensa, in grado di entusiasmare i tifosi e di suscitare ammirazione tra gli spettatori di fede avversa. Ibrahimovic è la potenza, unita all'astuzia e alla determinazione. Eto'o è la leggerezza e la velocità. Ibrahimovic è il fuoco che riscalda dal freddo del nord. Eto'o è l'aria del cielo terzo africano. A unirli una voglia di vincere pura, sportiva, leale, diretta. A dividerli le radici. Samuel Eto'o, classe 1981, nasce a Ancon, nel cuore del Camerun, Africa equatoriale. Crescere lì significa non avere molto per giocare, tranne un pallone, che si può costruire anche con qualche foglio di carta di giornale tenuto insieme da uno spago. E per questo motivo, se in alcuni posti difficili, come le favelas brasiliane, sbocciano molti talenti calcistici. I bambini passano tutto il giorno per strada ad allenarsi. Ed è anche per questo che paesi come Brasile e Camerun hanno nazionali fortissime. Il piccolo Samuel comincia a giocare a calcio nell'UCB Douala, squadra camerunense. Nel 1996, a 15 anni, entra nel settore giovanile del Real Madrid per poi passare al Mallorca. È qui che inizia a farsi conoscere nel calcio spagnolo ed è qui nel corso di 5 stagioni, in cui gioca 133 partite e segna 54 reti, che si perfezionano quelle che sono le sue caratteristiche tecniche. Innato fiuto del gol e ottimo tiro dalla media distanza, oltre che grandissima intelligenza tattica. Non è difficile intuire che il destino gli riserverà club prestigiosi. Eto'o è un ragazzo camerunense magro e veloce, con il sorriso sempre stampato sulla faccia. Dopo 5 stagioni nella squadra spagnola del Mallorca, nel 2004 il grande Barcellona fa di tutto per portarselo a casa. Tecnici e tifosi lo sostengono con calore. E Samuel, fin dall'inizio, non delude. Sfiora per un soffio il titolo di Pichichi, capocannoniere della Lega, sopravanzato di un solo gol da Diego Forlan del Villarreal. E ha la fortuna e il merito di vivere il grande momento del club catalano, nel quale si afferma il grande tridente del Barça, Eto'o, Ronaldinho e Messi. Eto'o, umile e votato alla squadra, a differenza del collega svedese molto più individualista e prima donna, non dimentica mai la legge dello sport. Non hai nessuna differenza, no? Non c'è differenza, non vince uno solo, quando si vince e basta. E con il Barcellona vincere è a portata di mano. Liga, Coppa del Re, Champions. Nella stagione 2008-2009 il Barça mette in bacheca tutti i titoli. Pep Guardiola ha soli 38 anni, è il primo tecnico che guida una squadra spagnola a realizzare il triplete in un solo anno. Spesso sono i tecnici a pagare i brutti risultati e spesso sono i giocatori migliori a prendersi gli onori quando al contrario la squadra vince. Questa però è anche la vittoria di Guardiola, che a 38 anni dà una vera e propria lezione di calcio che i telecronisti esaltano. Golazo del Barcellona! È il miglior equipo del mondo. È un spettacolo autentico este Barça de Pep. Ma finita la stagione nel modo più brillante che si potesse sperare e conclusi i festeggiamenti, per Eto'o finisce anche il ciclo al Barça. Ha solo 28 anni e non gli manca niente. Ha già vinto tutto all'interno dello stesso anno. La Champions League per Ibrahimovic è un sogno sfuggente, come lo è per l'Inter. Ibra invidia quel ragazzo così diverso da lui nel fisico e nell'animo, che è arrivato dove lui vorrebbe arrivare. È qui che il destino mescola le carte e fa incrociare le strade dei due coetanei. Ibrahimovic e Eto'o si scambiano le maglie e le vite. Un evento per loro è un evento nel mondo del calcio, con una trattativa che tiene incollati davanti alle ultime notizie migliaia di tifosi, curiosi di sapere come andrà a finire. Ma questa volta il presidente Moratti, memore degli errori del passato, ovvero la tardiva cessione di Ronaldo quando il fenomeno aveva già giurato fedeltà al Real Madrid, decide di non prendersi troppo tempo per decidere. Lo svedese, insoddisfatto e frustrato da una squadra dominante in Italia, ma che non riesce in Europa, ottiene di andare al fortissimo Barcellona, contro ogni pronostico di Mourinho, che fino a pochi mesi prima dichiarava: continuo a pensare che Ibra l'anno prossimo sarà giocatore dell'Inter. Un grande giocatore, importante per noi, la società gli dimostra chi vuole migliorare, ha comprato un giocatore importante, migliora il suo centro allenamento, continua a voler migliorare la sua squadra per continuare a vincere in Italia e fare molto meglio di quello che ha fatto negli ultimi anni in Europa. Lui ha vinto capocannoniere per prima volta, ha vinto il suo quarto o quinto campionato in Italia, ha condizioni per continuare a vincere. In cambio l'Inter ottiene il cartellino di Samuel Eto'o. Javier Zanetti, capitano nero-azzurro, si dice ottimista sull'arrivo del giovane camerunense. Purtroppo magari qualcuno dovrà andare via, ciò perché magari è fine contratto, qualcuno perché fa delle scelte personali, e io credo che l'Inter continuerà con questo ciclo vincente, e deve essere così. L'importante, ripeto, è che i giocatori che arriveranno possano contribuire insieme a tutti noi a continuare a portare l'Inter al più alto. Dal canto suo, Guardiola dichiara senza troppi dispiaceri che il tempo di Eto'o con la maglia blugrana è finito e molti supporter della squadra catalana guardano con entusiasmo all'arrivo dello svedese, ritenendo che il gioco possa diventare ancora più spettacolare dell'anno prima. Mentre Ibrahimovic al Barcellona arriva carico e sicuro di vincere, Eto'o si presenta in spogliatoio umile e a disposizione della squadra. Il primo vuole il riscatto ed è certo che il Barça potrà offrirgli la sua occasione. Il secondo, appagato dai successi della stagione in Spagna, è ambizioso e motivato, ma molto più sereno. Quello che ancora i due non sanno è che il destino a volte gira su se stesso. A Destini Incrociati stiamo parlando di calcio e ambizione, di individualismo e gioco di squadra, di voglia di vincere e di uno scambio di maglie che vede protagonisti due grandi calciatori. Il primo è Zlatan Ibrahimovic, il secondo è Samuel Eto'o. Ibra è il singolo che nelle grandi cavalcate di gruppo sa mettere la firma anche nel momento più difficile. È l'attaccante geniale di poche parole e tanti fatti, poco propenso a dividere con gli altri le luci della ribalta, che mette a tacere le critiche dimostrando sul campo quanto vale. Non si può fare meglio di così, sono molto contento. Non lo sapevo quanti gol di altri hanno fatto, però avevo informazioni qua a fianco di me. Al fine, quando la partita era finita, hanno detto che ho vinto e sono stato molto contento perché ho lavorato tanto per questo. Quando sono venuto in Italia mi hanno criticato che è un giocatore fantastico ma non fa tante gol, che è importante. Adesso ho vinto e non lo so cosa devo dire. Vuole la Champions, il pallone d'oro, e va al Barcellona, la squadra più forte del mondo, reduce dal triplete la stagione precedente, per vincere tutto. Eto'o è la merce di scambio. Lui, falcata impercettibile, sguardo da bambino, classe cristallina, intelligenza tattica, ha già vinto tutto con il Barça e prende il posto di Ibra all'Inter. Un club che fatica a guadagnarsi un posto in Europa, ma che non ha mai perso il suo prestigio. Appena arrivato, il camerunense fa una dichiarazione. Sono molto emozionato. Sono molto emozionato. So che l'Inter è una squadra molto importante. A conquistare questa cosa, no? E che abbiamo grande possibilità di conquistare quello che noi vogliamo conquistare. Club, no? Ora, mi sueño y mi deseo y soprattutto mi sogno, i miei desideri con e soprattutto la mia voglia di fare di conquistare con l'Inter. Che he con il e fare la stessa storia, se non di più, di quello che ho fatto col Barcellona. Il destino sembra scritto. Esperti, commentatori e avventori da bar danno per scontato che si avverrà il sogno di Ibra. Ma l'epilogo lascerà tutti senza parole. Il Barcellona a inizio stagione parte in difficoltà per alcuni motivi. Due arrivano sull'onda del triplete della passata temporada e risiedono rispettivamente nella capacità di gestire una stagione intensissima con impegni ogni tre giorni e di confermare i livelli di gioco scintillanti dell'anno precedente. Il Barça rischia perché se l'è giocata su sei fronti con una rosa insolitamente corta per un club dal potenziale economico simile. Non si può dire che i Blaugrana siano arrivati completamente stremati alla fine della stagione, perché in qualche modo Guardiola è riuscito a organizzare un turnover contando sulla polivalenza di buona parte dei suoi giocatori. Ma in ogni caso il Barça 2009-2010 ha ben poco della brillantezza di quello della stagione precedente. Show me with your magic, let it look and try. È un classico delle grandi squadre al secondo anno di ciclo. Pur senza tirare indietro la gamba o snobbare gli impegni, imparano a vivere un po' di rendita. La stagione del triplete, Guardiola doveva a tutti i costi dimostrare di aver voltato pagina rispetto alle ultime due decadenti stagioni dell'era Rijkaard, nell'atteggiamento, ancor prima che nei risultati, giocando a mille ogni secondo di ogni partita. Ma adesso il Barça non deve più convincere. Inoltre i nuovi acquisti si rivelano decisamente deludenti. Primo tra questi proprio Ibrahimovic, che in Champions gioca in modo pessimo, contribuendo indirettamente in semifinale al passaggio dell'Inter all'ultima gara. Una beffa del destino, che fa sfumare il sogno dell'ex nero-azzurro svedese e rinnova la voglia di vincere del campione Eto'o. E alla finale di Madrid per l'Inter è tripudio e spettacolo. È incredibile, tutti vogliono andare verso il loro pubblico. Balotelli e Materazzi che si portano uno sopra l'altro. Mourinho, l'addetto stampa che si è buttato per terra a fine partita. Mourinho sta piangendo, si abbraccia Materazzi. Ha giocato un minuto e mezzo, ma è il suo eroe personale, l'uomo spogliatoio. E adesso Mourinho, tutti i giocatori verso la curva dei tifosi dell'Inter che sono in autentico delirio. Ibrahimovic guarda i festeggiamenti della squadra che ha lasciato, una squadra che non credeva capace di garantirgli la Champions e che invece in una sola stagione ha messo in bacheca tutti i titoli: Coppa Italia, Scudetto e Coppa Europea. Non parla Ibrahimovic, soffre in silenzio il suo lento declino. L'ha sempre detto lui, spavaldo e istintivo: voi parlate, io gioco. Ma questa volta il dolore della sconfitta brucia come una ferita aperta. Qualche tifoso, dopo la vittoria, parla per lui. Ibra, volevi vincere la Champions, hai sbagliato squadra. Eto'o, al contrario, in qualche modo il suo alter ego, assapora il gusto del successo. Dopo il triplete con il Barça, conquistare la tripletta con l'Inter non è da tutti. Ha vinto tutto il camerunense, è diventato un mito idolatrato da tifosi e tecnici. Soprattutto è una divinità per la sua gente, di cui non si dimentica mai. L'Inter lavora anche con l'Africa e lo fa attraverso Intercampus. Tu puoi essere come un ambasciatore per l'Inter in Africa. Può essere in qualche maniera un ambasciatore per l'Inter con Intercampus. Sì, ho già parlato con il presidente di questo e spero che possa accadere. Comunque sicuramente mi rende orgoglioso il fatto che l'Inter abbia questo tipo di impegno con l'Africa e con il Camerun, che è la mia terra. Ibra e Eto'o, un doppio destino che sembra destinato a incrociarsi eternamente. Lo zingaro svedese è tornato in Italia, nella sua Milano, forse per ripianare il conto in sospeso col rivale nella magica atmosfera del Meazza di San Siro. E allora è fatta, Ibrahimovic è un giocatore del Milan. To try and save your swollen face. Though I don't like you anymore. You lying, trying, waste of space. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.